E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E non potevamo che essere qui, naturalmente puntuali, più o meno, diciamo. Roberta Giordano con voi, e voi, ascoltatrici e ascoltatori, ci siete dall'altra parte, siete stati puntuali anche voi oggi, siete pronti con le vostre notizie della settimana da commentare. Il numero verde è sempre quello, verde perché è gratuito, oltre che ecologico, evidentemente, non lo so perché. 800 24 00 24, numero verde 800 24 00 24. Diciamo anche questa settimana una paccata di notizie, veramente una paccata di notizie incredibile. Io faccio un resumé, ovviamente, per questioni di tempo. Tra quelle principali, sapete, c'è stato il vertice di maggioranza in questi giorni, ovvero tra il presidente del Consiglio Monti e i leader dei partiti che sostengono il Monti, questa maggioranza trasversale, quindi PDL, PD e Terzo Polo, e sembra che ci siano stati degli accordi più o meno sul lavoro, sulla giustizia, sulla RAI, anche se poi con le cose che sono venute, le indiscrezioni che sono venute man mano fuori, sembra che tutto questo accordo in fondo, ma sulla RAI, diceva ieri Monti, dovremmo trovare un direttore generale che faccia da commissario, che come nei casi di commissariamento sappia risanare l'azienda. Però subito Gasparri del PDL ha detto no, questa è una cosa assolutamente incostituzionale, quindi ci sembra che sulla RAI ancora la questione sia delicata. Sulla giustizia si torna a parlare di intercettazioni e di altre questioni, forse non di assoluta priorità, ma comunque staremo a vedere. E anche la questione lavoro, sembrava appena uscite le agenzie, no, dopo il vertice, trovata un'intesa tra la maggioranza e il governo, e poi abbiamo visto invece che non è contenta né la Camusso, segretaria del principale sindacato italiano, la CGIL, ma neanche Marcegaglia, leader dei Confindustriali. Quindi insomma, questo accordo che un po' come forse titola oggi il Corriere, che è vediamo se lo riprendo, eccolo qui, l'accordo che divide, scusate il fischio, mi sono girata con l'orecchio verso il microfono, stavo guardando il Corriere, l'accordo che divide, quindi è un po' un ossimoro, cioè una contraddizione in termini, se è un accordo come fa a dividere, però è un buon titolo quello del Corriere oggi. Poi tra le notizie risoluzione di Strasburgo, si torna a parlare nuovamente, diciamo la verità che da quando qui c'è stata quella polemica nella puntata dell'11 febbraio, che era presente mio ospite qui Giovanardi, che lanciò questa roba sui baci tra ragazzi eccetera eccetera, c'è stato un dibattito infinito, finalmente rinverdito, sui diritti delle persone omosessuali, e da lì la cosa è montata man mano, poi si è innestata per coincidenza sulle polemiche funerali di Lucio Dalla, poi c'è stata questa risoluzione di Strasburgo che ha detto biasimiamo i paesi che ancora hanno delle leggi restrittive rispetto alla possibilità anche delle persone omosessuali di fare famiglia, e poi la sentenza della Cassazione proprio due giorni fa che ha detto che anche le persone omosessuali hanno diritto a fare famiglia. È vero, dice che in Italia non c'è il matrimonio, la legislazione non lo prevede, però è stato, diciamo, un primo ponte verso questa risoluzione di Strasburgo, e per dire forse in Italia, diciamo, qualcosa si potrebbe anche cambiare, un pochino si potrebbe anche andare avanti e riconoscere un po' i diritti di tutti. Poi naturalmente con la politica che si è divisa, le nuove tangenti, il nuovo caso di presunte tangenti in Lombardia, e pare che finora in Lombardia ci siano, nella regione Lombardia, almeno 9 indagati fino adesso, e il caso Emiliano non è indagato, il sindaco di Bari, però diciamo che è dentro un po' uno scandalo tra appalti, corruzione eccetera eccetera, e il caso Lusi che continua a far tremare un po' la politica e indignare anche le persone, perché sempre più si rendono conto di quanti soldi arrivano ai partiti come finanziamento pubblico, come rimborso elettorale, altra espressione che poi è stata usata, insomma, al di là dell'utilizzo che ne abbiano fatto, che poi ne risponderanno con i magistrati, però ci si accorge di quante paccate di soldi in quel caso ci sono, e senza nessuna trasparenza. Poi se ci muoviamo anche sulle notizie dall'estero, la Siria con stragi continue, donne e bambini soprattutto questa settimana, e poi la tragedia anche avvenuta in Svizzera. Ma che cosa ci conferma questa settimana, mie care ascoltatrici e miei cari ascoltatori, che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. che i gatti non sono più quelli di una volta. C'è stato, pensate, un workshop, addirittura un workshop a Genova con etologi, zoologi, veterinari. Che cosa hanno concluso tutti insieme in questo convegno che fumava di cervelli pensanti, eccetera, eccetera? Che il gatto di oggi mangia cibi da gourmet, se ne infischia di prendere i topi, occupa divani e poltrone, si fa le unghie sui mobili, ma questa mi sembra una vecchia tradizione, snobba i cani, odia la confusione e le novità. Insomma, un gatto che non è più quello di una volta, dicono, ipercoccolato, ipernutrito, li vedete un po', diciamo, un po' paffuti di solito, iperviziato, forse anche un po' annoiato. Qualcuno potrebbe dire, sembrano i giovani di oggi, se non fosse che i giovani di oggi sono in difficoltà col precariato e non devono semplicemente stendersi sul divano o per terra grattando il tappeto. Questo ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Quello che ci conferma anche questa settimana che ci sono le mezze stagioni, che le cose in Italia continuano ad andare in un certo modo, naturalmente non sono mancate donne vittime di compagni, ex compagni, mariti, ex mariti, una presa a martellate, l'altra presa a coltellate a Milano e un'altra in Sardegna, presa a martellate, ucciso il suo bambino, lei in gravi condizioni, sembra che si stia riprendendo. Comunque, vedete, tutto lineare, proprio femminicidio, continua tranquillamente, quindi delle certezze possiamo continuare a avere. Abbiamo la certezza anche oggi, ascoltatrici e ascoltatori, che abbiamo ovviamente un esimio opinionista estemporaneo. Giorgio Mulè. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, secondo... Secondo le regioni, no? Esatto, fusi. Brava. Giorgio Mulè. Grazie Roberta, ciao. Grazie a te, caro Giorgio Mulè, sempre molto pimpante, Giorgio, mi piace anche per questo, direttore di Panorama, che ha fatto una scelta un po' inconsueta, poi andremo a vedere la copertina, ve la racconterò naturalmente, per radio non si vede, si racconta la copertina, diciamo, un po' sui generis di Panorama di questa settimana. Però, prima di tutto, caro Giorgio, io volevo... chiederti, domanda fondamentale, tu avresti mai detto che aveva 100 anni? Chi? L'Ape Maia. Ah, no, perché in realtà io sono cresciuto anch'io con l'Ape Maia, un po' come si te, sente. Perché insomma sì. Non svegliamo nulla, ma siamo quasi coetanei. Sì. E no, per me l'Ape Maia in realtà aveva, essendo io del 68, dunque io l'Ape Maia la vedevo alla fine degli anni 70, sì, quindi quando avevo 12-13 anni, ecco, 12 anni. Quindi per me l'Ape Maia in realtà aveva sì e no 2-3 anni. Anche per me, piccolissima, esatto. Con quei riccioli da... assolutamente. No, sempre composti da Shirley Temple, uno dice... Oh, sì, invece scopro... E invece no, vola l'Ape Maia, tanto tenera Gaia, sempre Gaia, insomma, mi ricordo pure la sigla. Gaia, sì. No, però no, assolutamente no, non avrei mai pensato che avesse 100 anni. E se li porta benissimo. E li ha compiuti proprio in questi giorni, perché pensa, nel 2012, perché arrivò in TV in quegli anni effettivamente, no? Quando l'avevamo vista noi, però la nascita del personaggio si deve a un romanzo addirittura pubblicato nel 1912 dallo scrittore tedesco Waldemar Bonsels, che ebbe un successo straordinario con quel libro e poi soltanto negli anni 70 fu trasformata in cartone animato con Willy, il suo compagno, il Fuco, esatto. Così si dice, il maschio, esatto. Dell'ape, Fuco, un po' inutile, un po' simpatico, diciamo, un po' incapace, ecco, un po' sprovveduto, molto simpatico, e così insomma abbiamo scoperto che... Sai che cosa ti devo dire? Adesso non so se interesserà ascoltatrici e ascoltatori, ma diciamo nel rapporto con gli animali, io guardando l'Ape Maia ho imparato a non avere paura delle cimici, mi erano così simpatiche, io le prendo in mano quando le trovo, no, un po' qui un po' là. Beh, Roberta, il problema è che le tue erano cimici della natura, sì. Le cimici digitali, insomma quelle diciamo che usa la polizia, io un po' di paura ancora ce l'ho di quelle cimici là. Ma non... vogliamo fare polemica sulle intercettazioni adesso, Giorgio? No, per carità. Ma se vuoi ne possiamo parlare, sai che qui c'è assoluta libertà. Tra l'altro, invece, io ti porrei, proprio avvicinandoci a questioni politiche, un quiz, caro Giorgio Mulè, e ti consiglierei di tenere la cuffia ben calata sulle orecchie, che non hai, ce l'ho io, però facendo finta che sia un quiz tipo rischia tutto, tu fai finta di avere questa cuffia e concentrati, perché ti sto per sottoporre tre frasi di questa settimana e tu mi devi dire chi le ha espresse, proprio dalla bocca di chi è uscito. Allora, pronto, Pronto. Attenzione. Allora, chi ha detto sosteniamo il governo con opere e omissioni? Non è stato il vescovo, il cardinale Ruini, Angelino Alfano. Bravo. Poi, molto bene, poi invece ha detto non mi dimetto certo per una spigola. Emiliano, il sindaco di Bari. Bravo, bravissimo. Cosa gli regaliamo? Aspetta, terza no, domanda. Basta un gamberetto, guarda. Un gamberetto. Beh, le ostriche non te... No, le ostriche non mi piacciono. Le cozze pelose le devo provare. Cozze pelose. Infatti, Emiliano parla di queste cozze pelose che mi hanno incuriosito. Non è che il pelo mi attiva. Cozze pelose. Vabbè, e l'ultima, attenzione, l'ultima. ti do un piccolo suggerimento. Non l'ha detto Rocco Siffredi, questo che sto per dire, nessuna pornostar, ma ha detto: non ho tabù, sono disinibito. Nessuna pornostar mi ha detto? No, dico la frase che ti sto per dire, non l'ha detta nessuna pornostar. Okay, ti voglio dare un aiutino, come si dice. No, l'aiutino. Io sono concentrato, signor Manchia, quindi ero Allegria, ha detto questo personaggio, ha detto: non ho tabù, sono disinibito. Non ho tabù, sono disinibito. Guarda, potrebbe essere sia il premier Monti, ma in realtà l'ha detta Pier Ferdinando Casini. Bravissimo, un applauso ci vuole. Non abbiamo un altro rullo di tamburo, qualcosa, una pioggia di coriandoli su Giorgio Mure. L'ha detto sulla Rai perché ha detto che non è disinibito. Sì, era sulla Rai. Sì. Secondo te avrà voluto lanciare un messaggio, qualcosa? Dice, finita l'era berlusconiana, un po' diciamo di sboccacciati, di gente un po' discinta. Recuperiamo, voglio dire, sono disinibito, non ho tabù. È possibile, Casini, magari. Quei tempi cambiano. Ma che ti devo dire? In realtà quello che guida in televisione, come alla radio, come nei giornali, purtroppo guida l'audience, guidano i risultati, guidano gli ascolti, quindi c'è modo e modo di ottenere gli ascolti. Se c'è un servizio pubblico che ha come missione, come mission, come dicono i tecnici, quella di coprire gli interessi di tutti gli italiani, quindi non badando strettamente agli ascolti e al risultato, ma badando al fatto di dare una offerta informativa, di intrattenimento più completa, beh, allora bisogna essere disinibiti nella serena strafottenza dello share, per cui la Rai deve fare musica classica e deve fare varietà. Se invece si applicano logiche da TV commerciali, e allora mi sa che l'offerta sarà minore, ma ne risentirà l'offerta culturale di tutto il paese, quindi anche noi avremo qualcosa di meno. Ma qua siamo d'accordo, Giorgio, ma allora sei d'accordo, no? Secondo me questo è un punto cruciale anche della tenuta della maggioranza, del sostegno a Monti, eccetera, eccetera. La RAI bisogna cambiarla, bisogna renderla più indipendente dalla politica, oppure no, questa governance di cui si parla? Vabbè, insomma, è un po' come l'articolo 18. Allora, io penso che da quando vedevamo Goldrake e la Pemaia, anche Mazinga Z, e anche Mille Scire, eccetera, eccetera, noi abbiamo sentito parlare di RAI privatizzata. Cioè, io ho un sereno ricordo che risale a metà degli anni 90, in cui si cominciò a parlare della necessità di privatizzare almeno un canale della RAI. Allora, è sicuro che la RAI, così come adesso, a mio giudizio, è sovradimensionata. Cioè non è possibile avere 12-15 canali in mano al pubblico, in mano alla servizio TV pubblico. Di Stato. Esatto. Cioè è necessario che la RAI, come in altri paesi europei e non europei, abbia 3-4 canali che si basano su un canone che va pagato e che serve a finanziare non magari il cachet di artisti che poi vanno a fare concorrenza alle TV commerciali, ma servono a, ripeto, colmare la mia sete, la mia necessità di avere un'offerta che non trovo su altre televisioni. Quindi io penso che una, due reti della RAI vanno privatizzate con un'attenzione vera ai tetti dell'antitrust, quindi evitando, tanto per essere chiari, che possano finire a imprenditori o accordate legate a Mediaset o altri soggetti come Sky presenti sul territorio nazionale, e che è una logica di mercato che quella rete gareggi in parità con le altre reti che non è di tipo commerciale. Ma la politica la vogliamo tenere distante dalla governance della RAI, dalla gestione, dal CDA, dal direttore generale, dal presidente? Guarda, la politica dovrebbe fare un sereno favore all'Italia intera, fare non uno ma 10 passi indietro dalla RAI. Ma siamo veramente d'accordo. E abbiamo diverse ascoltatrici e ascoltatori che cominciamo a sentire, partendo da Nicola da Milano. Pronto? Pronto Nicola. Salve. Ciao. Ciao, io sono sempre quello famoso immobilitano, tanto per Renzo, se ti ricordi. Quello del riso coi fagioli. Ma hai cambiato un po' menù, Nicola? Sì, adesso vado sul formaggio. Ah, bene. Che tipo di formaggio ti piace? Di calcio. Sono poco formaggiai. Per dare un calcio alla sfortuna bisogna di un po' di calcio. Molto bene, ci piace questo gioco di parole. Gorgonzola o groviera o taleggio? Sicuramente il quartirolo. Il quartirolo, che è tipicamente lombardo. La bocca, anche se la pompo la bocca, però è buono. Buono. Io non sono molto formaggiaia, ma apprezzo chi apprezza i formaggi, tradizione italiana. Prego Nicola, qual è la tua notizia di oggi? Sì. Una considerazione, parte il discorso lavoro che preferisco, su quale preferisco stendere un velo di pietà, diciamo che io mi chiedo, ma dopo questa purga, chiamiamola così tra virgolette, dopo questa purga tecnica, del governo tecnico, quale credibilità potranno avere ancora i cittadini nei confronti dei politici di mestiere? Cioè nel senso, quale fiducia dici? Sì, diciamo, c'è stato questo governo, sta cercando di fare, appunto, ha preso delle decisioni anche, se vogliamo, impopolari dal punto di vista più che altro delle tasse, eccetera. Si spera poi che faccia anche delle proposte, insomma, qualcosa di più costruttivo, a parte il discorso della benzina, che è già quello però sul quale, diciamo, ho forti dubbi, diciamo, ecco, aumenti in continuazione questa benzina. Siamo arrivati a 2 euro, sì. Io la macchina la sto tenendo ferma, sto usando la bicicletta, e non è uno scherzo, è vero. No, ma è vero, c'è anche proprio un calo dei consumi dei carburanti, necessariamente. No, mi chiedo adesso, a parte queste battute, sì. Proprio, una volta appunto che il governo tecnico dovrà passare, sì, appunto, di la nuovo palla. La patata, diciamo così, ai politici di mestiere, sì, come potranno i cittadini, visto che è stato necessario trovare instaurare un governo tecnico per risolvere, diciamo, tentare di risolvere i problemi, poter avere ancora fiducia? È una buona domanda, Nicola. Effettivamente, grazie Nicola e buon appetito. Oggi abbiamo detto il quartirolo, mangia già mangiato. Nicola, Giorgio Mulè, effettivamente è una domanda pertinente che si sono posti in tanti anche attraverso i sondaggi. Mi pare che ricordasse proprio Beppe Severgnini nei giorni scorsi sul Corriere che i politici hanno un livello di gradimento tra la pubblica opinione in questo momento dell'8%, appena sopra, dice, i banchieri e i serial killer, mi sembra di ricordare, sì. Sì, peraltro un sondaggio confermato pochi giorni fa da un altro di Mannheimer. Sì, infatti. Quindi la politica naviga in pessime acque. C'è anche da dire che tutte le misure che sta prendendo il governo Monti la sta prendendo in forza del fatto che è sorretto da una maggioranza che è politica. Allora, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che responsabilmente PD, PDL e UDC stanno facendo in modo che la purga, come diceva il nostro amico, o le misure che sta prendendo il governo Monti arrivino in porto grazie al fatto che c'è questo sostegno e quindi c'è una maggioranza in Parlamento. Questo vuol dire che la politica ha spazi di responsabilità e ha spazi di responsabilità che, come dire, sono convintamente espressi all'interno del Parlamento e delle istituzioni. Allora, ciò vuol dire che può esserci nel 2013 un'offerta politica nuova e diversa rispetto a quella attuale, rispetto ai partiti come li abbiamo attualmente nello scacchiere, quindi PD, PDL, UDC, che sappia far tesoro di questa esperienza avuta in questo anno e mezzo del governo Monti, quanto diventerà, per poter guardare davvero all'interesse degli italiani e guardare un po' di meno all'interesse della singola parte. Ciò che significa? Significa, ad esempio, non avere paura di condividere un'agenda formata da 10 punti in cui si fissano dei paletti per lo sviluppo e la crescita di questo paese, mettersi intorno a un tavolo e stabilire che, ad esempio, per altri 2 anni, dopo il 2013, questo paese fonda la sua straordinaria forza di poter crescere e competere sul fatto che si ritrova su alcuni punti condivisi con una guida politica nella maniera della grossa coalizione tedesca, che possa arrivare a raggiungere alcuni obiettivi per il bene dell'Italia. Giorgio, diciamo che gioca sulla poca credibilità della classe politica italiana. Vabbè, il fatto che si è arrivati a questo punto, che si è dovuti passare il testimone a un governo tecnico, anche se politico, però hanno dovuto fare appunto un passo indietro, come tu dicevi, forse dovrebbe fare un favore agli italiani farne parecchi indietro. Però quanto gioca anche a parte la casta, i privilegi, ma anche la corruzione, no? Ancora questa settimana si è detto che è un problema gravissimo, un'emergenza in Italia, perché sono sprechi, perché sono disservizi nell'amministrazione, perché alla fine è criminalità. Ancora questa storia, per esempio, in regione Lombardia, come la vedi la situazione? Com'è che quasi ogni giorno viene fuori qualcuno? La vedo con profonda tristezza, con profonda tristezza, perché da una parte c'è una dose di abbondante gaglioffaggine, consentimi, da parte della mi politica. Piace, sì. Dall'altra c'è una enorme irresponsabilità, per cui da destra a sinistra, devo dire, non si salva nessuno, cioè l'arco costituzionale si ritrova totalmente nelle inchieste che da una parte all'altra dell'Italia stanno incidendo sui partiti. Questo ovviamente va a diminuire ancora quel 4% di disperati che continuano a credere e a chiedere che la politica riconquisti il ruolo alto e nobile che le compete. Quello che io penso è che la politica si sta suicidando, si è già suicidata in parte, è una lenta e purtroppo, mi pare di capire, inesorabile malattia che lo sta portando a desalare prima o poi l'ultimo respiro. E la responsabilità sarà della stessa politica, che ha bisogno di una commissione che guardi in tutta l'Europa per capire quanto deve guardare, quanto deve tagliare i suoi stipendi, nonostante questa commissione dica guardate che i vostri stipendi sono alti, ha bisogno di un'ulteriore commissione per raggiungere, arrivare all'idea che forse 15.000 euro netti al mese sono un po' tanti per un parlamentare, ha bisogno di doversi confrontare al loro interno per capire che il rimborso elettorale pro capite è oramai un furto ed è soprattutto un'offesa a chi viene chiamato a fare dei sacrifici, e a furia di non capire non sarà più capita e quindi si autoannullerà. Ti farei un applauso, caro Giorgio, ma non voglio essere troppo enfatica in questo momento, e passerei la palla ad Antonio da Siracusa. Buona giornata, signora Giordano, piacere di sentirla, lei e anche il direttore di Panorama. Piacere reciproco, signor Antonio, prego. Sì. No, devo dire anche farti un complimento per il programma, perché mi ricordo l'anno scorso eravamo in questo periodo, parlavamo dell'Unità d'Italia, mi hai portato un po' a informarmi sulla Marsigliese, sulle varie versioni, sull'aristocrazia che cercava di abolirla, eccetera. E mi hai portato fortuna, perché tanti teatranti me la cercano, abbiamo fatto anche una scenetta, quindi la tua trasmissione compartecipe, perché anche scrivo. Voglio i diritti allora, abbi pazienza Antonio, mi darei qualche diritti, sì. Un po' di diritti di questa no, cosa. Perché, no, sulla Marsigliese che è molto molto atroce, molto viva verso la battaglia, Mollè lo sa, il direttore che è con te, rispetto al nostro inno, insomma ho fatto una bella scenetta. Che viene. Ma ho bello, chiamato nostro, perché sì. Siccome io da bambino ho fatto cabaret, ho scritto cabaret, sì. Mi accorgo che il problema della RAI è che viene diviso il potere, il direttore che lei ascolta e a politici che ascoltate questa radio, industriali che ascoltate questa radio. Tutto il mondo praticamente, anche Obama. Sì, no, e il problema è che poi le commissioni vengono divise, sai, come percentuale di voti. Io ho preso il 10% e a me mi tocca il 10% della RAI. Io ho l'ottimizzazione famosa, sì. E non si prende per merito, cioè gli scrittori, gli autori sono spariti dalla RAI, ci sono solo i partiti, questo è un guaio, lo dico perché sono del mestiere, ero direttore, ma nessuno ne parla perché non fa comodo nessuno. Antonio, comunque... no, ti ringrazio, no, ma questo è chiaro, si è parlato spesso del fatto che non ci siano più autori, che ci siano tutte produzioni esterne, quindi anche costose, quindi poca valorizzazione di certe risorse. Tra queste Freccero, che però questa settimana ha avuto, adesso direttore di Rai 4, un po' di disavventure, diciamo, una telefonata un po' animata con un giornalista Borgonovo di Libero. Però a questo punto mi dice Pietro Raccorsi, sì, che abbiamo il collegamento interplanetario, sapete, l'unica trasmissione al mondo, non possiamo farlo cadere questo collegamento, prego, sì. Riflessioni da Marte. In fondo, osservando nel tempo quassù da Marte con costanza, che non è un'amica marziana, dicevo con costanza il globo terracqueo e, come ormai sapete, in particolare le sorti magnifiche e progressive dell'Italico Stivale, ci si accorge che le sorti sono effettivamente progressive e che le cose un po' cambiano anche là nella penisola italica. E questa è stata, diciamolo, la settimana del riconoscimento dei diritti. Ebbene sì, i boss gay sono stati sdoganati dalla mafia. Ora non si nascondono più e se hanno potere le cupole li accettano. Una rivoluzione straordinaria. E tutto questo lo ha spiegato, parole sue, niente poco di meno che il procuratore generale di Ancona, Enzo Macri, ex procuratore nazionale antimafia, che dice: se un mafioso gay è un boss, un capo, spiega il procuratore generale, allora se lo può permettere di essere gay. Nessuno osa toccarlo. Questa, dice il procuratore, è la vera novità. Ma ci pensate, il nocciolo duro del machismo maschilismo più efferato che apre sui gay. Questa è la vera rivoluzione culturale, altro che Cassazione, altro che Parlamento di Strasburgo. Certo, qualche conservatore della società civile, qualche conservatore della politica italica dirà: e va bene essere mafioso, ma gay proprio no. E comunque la strada è aperta. Se la passano invece maluccio i moscerini maschi eterosessuali, quando vengono rifiutati dalle moscerine. Secondo infatti uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università della California San Francisco e pubblicato su Science, la rivista Science, mica Topolino, il moscerino rifiutato dalla moscerina affoga il dispiacere nell'alcol. Insomma, lui è rifiutato, non l'ammazza come succede ogni 3 giorni in Italia, ma si getta a capofitto, hanno scoperto i ricercatori, su cibi con alto tasso alcolico. E poi, secondo voi, tutto ubriaco com'è, chi farà il moscerino studiato dagli scienziati americani? Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer che E ritorniamo con i piedi per terra, arrivati i moscerini che svolazzano. E tra poco c'è Mariuccia da Trieste, alla quale chiedo di avere ancora un po' di pazienza. Perdonami Mariuccia. Paolo da Torino, sempre al numero verde 800 24 00 24. Ma volevo chiedere a Giorgio Mule, visto che è un argomento che continua a essere molto di attualità, io dico per fortuna, è un dibattito su cui bisogna molto discutere, che ne pensi Giorgio della sentenza della Cassazione di questi giorni sulle coppie omosessuali che hanno diritto comunque a fare famiglia, sulla risoluzione di Strasburgo? Che hai pensato tu in questi giorni, visto che la copertina, diciamo, è su questioni familiari, di affetto, di relazioni, poi la citiamo la copertina di Panorama. Tu che hai pensato? Che pensi in genere? Io penso che viviamo nel 2012 e che bisogna adeguarsi a quello che la società impone nel 2012. La società impone nel 2012 un modello di relazioni sociali che è diverso a quello che pensavamo soltanto 30-40 anni fa. Rifiutarsi di accettarlo o pensare di poterne fare a meno non si sa in virtù di quale principio significa mortificare prima di tutto le persone che stanno intorno a noi. La sentenza della Cassazione quindi non solo è benvenuta, ma secondo me arriva ovviamente in ritardo. In ritardo perché c'è da avere rispetto per chi declina la sua sessualità o declina i suoi rapporti sociali e di amore in un senso che lui interpreta in un certo modo. Non c'è nessun giudice che possa sindacare se un uomo debba amare un altro uomo o un uomo deve amare per forza una donna. Quindi è benvenuti, arriva in ritardo rispetto alla storia. Altro discorso è quello relativo alla paternità o comunque al riconoscimento di paternità per coppie di omosessuali, sul quale invece io ho più di un dubbio. E su questo si può discutere, poi sai che c'è anche la maternità omosessuale, che quella è più automatica, diciamo, se una donna in una coppia desidera un figlio lo può fare lei stessa, anche molto naturalmente, per cui lì diventa un po' più complicato dibattere su questa questione. Però prima di avvicinarci alla prossima pausa, mentre c'è Gian Gabriel Lombardo che sta prendendo migliaia di telefonate, quindi abbiate ancora un attimo di pazienza, volevo citare la copertina di Panorama, proprio perché è inconsueta, non è su questioni finanziarie, non è sul governo Monti, sulla politica, sugli scandali eccetera, ma c'è una bellissima immagine di un padre e di un figlio, e il titolo è Andrea autistico, quindi il ragazzo, e suo padre Franco, per lui ha rinunciato a tutto, insieme hanno girato il mondo in moto, e il titolo è Un amore di papà. Come mai ti sei concentrato, Giorgio Mule, su questo argomento così intimo? Perché sono stufo. Perché sono stufo delle chiacchiere, sono stufo di leggere per 90 giorni di seguito ogni giorno come cambia la previdenza, come cambia il lavoro, per poi scoprire che ogni giorno cambia in maniera diversa dal giorno di prima. Infatti, non ho capito niente neanche io, infatti. Esatto, perché mi sono stufato di leggere sui giornali lo spread o la differenza di 2 punti o 1 punto rispetto al giorno prima, che poi non ha purtroppo nessuna incidenza nella nostra vita reale. Allora ho detto, sapete che c'è, ai miei colleghi e collaboratori, noi questa settimana puntiamo su una storia vera, cioè è quello che è stato, secondo me, giustamente sintetizzato: piuttosto che dedicarci ai muri dei palazzi di Roma, dedichiamoci alla carne delle persone che ci stanno intorno. Per cui scegliamo una storia straordinaria, di un esempio straordinario, di un padre che scopre che il figlio è autistico quando questo figlio ha 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, per amore di questo figlio rinuncia alla carriera, rinuncia a percorsi professionali, devo dire molto ma molto interessanti, si dedica totalmente al figlio, guadagna meno della metà rispetto a quello che guadagnava prima, crea una fondazione, dopodiché a un certo punto della sua vita, quando questo ragazzo compie 18 anni, dice: sai che c'è, adesso io e te ce ne andiamo in giro per l'America con un Harley Davidson, hanno fatto insieme 38.000 chilometri, un diario di viaggio straordinario. Ed è uscito fuori un rapporto tra questo ragazzo autistico, che invece, come dire, ha delle doti straordinarie, e il racconto di questo padre, che è un racconto duro, duro perché un figlio autistico è, tra virgolette, una tragedia. Però Andrea dice, per esempio, che il figlio di Franco Antonello dice, ride sempre, ma nei suoi occhi leggi: aiutami, sono stanco, non ce la faccio più. E lui dice: mi viene in mente una poesia appesa sulla parete di un ospedale per bambini. La leggo ed è il motivo per cui ho scelto di fare la copertina. Recita questa poesia: d'accordo malattia, questa notte fammi soffrire, e se vuoi anche domani e dopodomani, un mese, un anno, divertiti un po', ma per sempre no. Su questa frase, che fa accapponare la pelle, secondo me si innestano 2000 riflessioni che ognuno di noi può fare rispetto alle priorità che si dà nella vita, rispetto all'effettività, rispetto ai rapporti che ha, rispetto alla gerarchia delle cose che arrivano nella sua vita. E per questo ho dedicato la copertina a questa storia, che devo dire è stata scritta con questa intervista sublime da un fuoriclasse qual è Stefano Lorenzetti. Di Mariuccia da Trieste, eccoci qui, grazie infinite della pazienza, Mariuccia. Buon pomeriggio a voi tutti. Grazie anche a te. Io vi ascolto sempre e oggi volevo dire la mia sì. Su quello che penso a proposito della situazione italiana. Io sogno che da domani, di non vedere più nessuno dei partiti, non li vorrei più vedere, ma proprio tutti. E da domani tirerei via tutte le prebende, tutti i vitalizi, tutto quanto, lascerei soltanto il governo Monti a fare il suo dovere, che deve farlo perché purtroppo è obbligato, vista la situazione contingente, darei questo Stato in mano a uno Stato straniero che metta a posto le cose. Dopodiché, ma la sovranità la manterrei. Noi abbiamo dato la cassaforte dello Stato, cioè degli italiani, di noi che paghiamo le tasse, in mano a dei ladri che stanno consumando tutte le risorse e noi naturalmente abbiamo un carico di tasse che è assurdo. Perché? Perché stanno mangiando tutto, perché è una cosa indescrivibile, e noi dovremmo fare le leggi sulla giustizia, sulle intercettazioni a questi qua. Io dico che è una cosa fuori dal mondo. Per quanto riguarda la RAI, io sono stata, adesso sono rientrata un mese all'estero, ero in Centro America, e cercavo di capire qualcosa attraverso RAI International. Era una cosa veramente disgustosa. Io dico questo, ma andiamo in giro per il mondo questo tipo di RAI? Cioè, voglio dire, inguardabile. Che cos'era la cosa più inguardabile, Mariuccia, per esempio? Ma tutto, mandavano in onda dei super varietà di 40 anni fa, cose assurde. Io mi limitavo a guardare i titoli dell'eventuale TG, ecco, dopodiché era proprio da buttare, a parte che non ci passavo tempo a guardare la televisione, ma se volevo qualche informazione dovevo guardare la BBC o la CNN, ecco. Sei poliglotta, tu sei internazionale, Mariuccia, che fai nella vita? Sei internazionale? No, io sono una persona normalissima, non faccio proprio niente di tale, io sono un'attenta lettrice, un'attenta osservatrice, e questa politica che abbiamo non ce ne può più. Chiarissimo. Io penso che la gente non dovrebbe neanche consumare le scarpe per andare a votare, nessuno dovrebbe andare a votare, perché consumare le scarpe per loro è un delitto, perché sono loro i delinquenti che ci governano. No, Mariuccia, ti ringrazio, ma anche come diceva Pannella anni fa, diciamo, magari era un po' più lucido, diceva: se non fai la politica ti fa, quindi si spera che cambino le facce, ma comunque è un dovere sicuramente, oltre che un diritto, andare a votare. A proposito del trovare gli accordi, il governo Monti, si va avanti o no, è appena uscita questa agenzia di stampa dove c'è scritto: secondo la segretaria della CGIL Susanna Camusso, siamo belli lontani, dice, da un accordo sul lavoro, sul quale allo stato attuale, ha proseguito la Camusso, mi sembra complicato trovare un'intesa. Quindi la cosa continua a essere molto sospesa e molto complessa e in continuo divenire. Paolo da Torino, sempre al numero verde 800 24 00 24. Paolo, buongiorno. Buongiorno a te. Io devo fare un intervento assolutamente diametralmente opposto a quello della signora Mariuccia. Ti è concesso. Io volevo dire, se la RAI è pubblica e quindi è dei cittadini, la RAI deve essere amministrata, retta da qualcuno nominato dai rappresentanti dei cittadini. Se non ci sono i rappresentanti dei cittadini, allora c'è la dittatura, tutto qua. Cioè, tu vuoi dire che devono continuare i politici, il Parlamento, a posizionare CDA, il Presidente, questo che vuoi dire, Paolo? Paolo. Ha detto la sua, ma ci ha abbandonati, ci ha lasciati così. Va bene, adesso molto velocemente direi che potremmo muoverci, prima di sentire il nostro appuntamento tra poco con la commentatrice del Corriere della Sera. Si è aperto anche, sapete, questa settimana il dibattito sugli OGM, è ritornata un po' anche questa questione, perché il ministro dell'Ambiente Clini ha detto: ma credo che si possa aprire sugli OGM, ha detto anzi che il fatto che finora l'Italia sia stata chiusa su questo argomento ha creato un grave danno, dice, per il nostro paese, perché da sempre compromette la ricerca sull'ingegneria genetica applicata all'agricoltura, alla farmaceutica, importanti questioni energetiche. Il fatto di non parlare o di aprire, dice, compromette tutti questi ambiti. Però il ministro dell'agricoltura Catania, sempre dello stesso governo tecnico, ha detto: l'Italia non ha bisogno degli OGM. E ci sono i vari pareri delle ascoltatrici e degli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Per esempio Corrado, che dice: forse ha ragione il mio omonimo, Quindi Corrado Clini dice: studiare OGM sarebbe l'unica possibilità per riuscire a capire il pensiero di Giovanardi. Ogni tanto ritorna. Morena scrive: sono contro decisamente gli OGM per intolleranza alimentare. Francesco: sono millenni che si cerca di modificare la qualità dei prodotti agricoli. Se ancora oggi si coltivasse il grano come 2500 anni fa, saremmo alla fame. Emiliana scrive: non credo proprio che saremmo alla fame se coltivassimo come un tempo, rispettando l'uomo e la natura. Vengono gettate tonnellate di ortaggi e frutta, come spesso si legge. In una crisi che dicono mondiale, ognuno dovrebbe mangiare il prodotto del proprio paese e non andare a esportare. L'Italia, dice, non ha bisogno degli OGM, ha bisogno del ritorno alla terra. Enrica scrive: come al solito anche gli esperti si dividono su due fronti opposti. Come facciamo noi a prendere posizione se non conosciamo a fondo la materia? È un po' come l'energia nucleare. Luca scrive: non sono né pro né contro gli OGM, ma desidererei essere libero di scegliere, quindi l'obbligo dei produttori o confezionatori di informare il consumatore. Tu che pensi, Giorgio Mulè, degli OGM? Penso che non bisogna fare sugli OGM così come sul nucleare, così come su tanti altri temi, delle guerre di religione, cioè partire dal presupposto che è giusto e sbagliato è sbagliato, cioè bisogna analizzare le cose per quello che sono, prendendo il buono e il cattivo e vedendo se tirata la linea conviene a uno Stato come l'Italia andare in una direzione in cui, non dimentichiamolo, sono già andati o stanno andando Stati molto più industrializzati o con un tasso, diciamo, di progressività, di benessere sociale superiore al nostro. Mi spiego, sul nucleare noi abbiamo preso una posizione oramai 15 anni fa, 20 anni fa, c'è stato il referendum, poi di nuovo adesso. Dopodiché tutti sappiamo che nella distanza di 180-200 chilometri dalle nostre frontiere, che siano francesi o che siano dal lato dell'Austria, ci sono, della Svizzera, ci sono qualcosa come 180-200 reattori nucleari, i quali, dovesse mai, e speriamo che non succeda mai, succedere qualcosa di grave, non è che la nube si ferma perché, ops, guarda, devo entrare in Italia e non entro. No, quello no, è meglio averli a distanza, però, che proprio sotto casa, no? Secondo me. È uguale, ma insomma, 180 chilometri sono una sorta di soffio, è come se tu facessi, ed è immediatamente arrivata la nube nucleare, quindi non cambia assolutamente nulla. E le scorie radioattive, perché poi ce le dobbiamo gestire noi. C'è una differenza, ma noi pensiamo che nel frattempo le nostre imprese, che pagano il 30% in più l'energia elettrica e quindi partono già svantaggiate rispetto alle altre, possano competere con le aziende francesi, tedesche o degli altri paesi che invece hanno questo gap diverso rispetto al nostro? Questo è un problema dell'energia, però riconoscerai, Giorgio, che dal Giappone anche la Germania e gli Stati Uniti hanno cominciato un po' sulla questione a decidere di non dico di smantellare, ma di fermare per il momento. Poi secondo me non ci ritorneranno, però non solo non lo faranno, perché anche la Germania ha annunciato che casomai fra 5 anni dovrebbe iniziare a smettere, ma vedrai che non smetterà. E comunque nel frattempo noi a che punto siamo? Noi siamo fermi ancora al fatto che non riusciamo neanche a costruire un rigassificatore, e questa è la drammatica realtà di questo paese, che non riesce a costruire una ferrovia che vada da Torino a Lione. C'è un paese che, di fronte alla sfida della modernità, che impone anche sicuramente dei rischi calcolati, piuttosto che correre questi rischi, preferisce stare un passo indietro. Però poi non è lecito né consentito lamentarsi quando si parla di competitività, di modernità, di infrastrutture, di logistica, perché, come dire, noi siamo coloro che determinano il nostro destino. E proseguiamo ancora per diversi minuti. Adesso sentiamo anche un punto di vista, un'angolazione particolare su questa settimana, da Maria Laura Rodotà del Corriere della Sera. Cara Maria Laura, buongiorno a te. In questa settimana, diciamo intensa e per molti aspetti drammatica, c'è anche una domanda molto frivola da farsi. Sentiamo. È più importante Casini o George Clooney? Ma dipende dai gusti, forse, non so. Non so, perché sono accomunati da una... Capelli brizzolati? Non solo sono brizzolati, non solo sono dei cinquantenni di bell'aspetto. Più bello Clooney. Ma ambedue si sono ostentatamente fatti fotografare. Uno ha una manifestazione davanti all'ambasciata del Sudan di Washington, sì, in cui George si è fatto arrestare. L'altro ha mandato su Twitter una foto in cui lui era in primo piano con gli altri leader dei partiti al vertice con Monti. E sono cose legittime, e giustamente tutti e due usano la comunicazione come possono e probabilmente devono. quello che devo dire a me fa un po' d'ansia è vedere la gente di mezza età, tra la quale mi metto, usare tutti questi media un po' come dei ragazzini. Mi chiedo se non siamo un po' buffi, mi chiedo anche se chi conta veramente lo faccia, ecco. E con questa domanda, questi interrogativi che ci lascia Mariola Rodotà, la salutiamo, la ringrazio. Preferisco un po' la visibilità di George Clooney, che insomma era lì a manifestare per il Sudan. E adesso invece ci spostiamo verso un altro appuntamento con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale vorrei chiedere questo termine che tanto ha fatto scalpore questa settimana rispetto ad altri molto più, diciamo, controversi di altri periodi. Paccata, che vuoi dire su paccata? Ecco, che vuol dire? Giusta domanda, perché in realtà nel significato col quale l'ha usata Fornero, notate che mai dirò la Fornero giustamente, è da un po', ecco, sì. In quel significato, cioè quello di grande quantità, la parola ufficialmente non esiste, no? Una paccata di miliardi, la parola non è registrata con questo valore in nessuno dei dizionari della lingua italiana. Due osservazioni. La prima è che qualche anno fa era diffuso nel linguaggio dei giovani, non so se lo sia ancora, il termine paccata, e il valore, il significato era quello che possiamo facilmente immaginare, non entro in particolari. Probabilmente Fornero ha usato paccata al posto di pacco, perché si dice un pacco di soldi. Il consiglio qual è? È quello di andare cauti con queste parole, perché anche pacco, tra l'altro, può essere soggetto ad ambiguità nel significato. In molte regioni del sud, per esempio, pacco che cosa significa? Significa fregatura, imbroglio. Allora, morale, meglio evitare, soprattutto da parte di una ministra che stimiamo come Fornero, queste parole in fondo troppo colloquiali, non adatte a lei, e dire più elegantemente una grande quantità, in questo caso di miliardi. Grazie, una grande quantità di applausi, di consenso a Valeria Della Valle. E c'è Roberto da Torino all'800240024. Roberto, ti prego di essere sintetico, tanto sintetico, scusami. Sì? Sì, pronto? Pronto, sì, siamo qui. Sì, grazie per l'ospitalità intanto, sì. E complimenti alla radio. Grazie. Allora, sì, devo dire che il mio argomento iniziale voleva essere quello sull'omosessualità. Poi la signora Rodotà che ha parlato prima mi ha stuzzicato un attimino su una cosa, perché dato che paragonava appunto questi personaggi famosi tipo Clooney o Casini all'ostentazione che hanno a farsi vedere in pubblico, io la vedrei diversamente. Intanto erano due situazioni completamente diverse, uno si è fatto vedere perché politicamente probabilmente cerca. Vabbè, ha trovato un nesso, il suo, questo anche un po' il suo mestiere, no? Osservatrice di costumi. L'altro, sì. Probabilmente, da quello che ho capito, stava facendo una manifestazione e tra l'altro è stato arrestato come un comunissimo cittadino. Poi rilasciato, sì. La cosa strana cos'è? Che qua in Italia ci si istituisce e si fa un fiume di parole, di scritto, di televisione, eccetera, su uno che cerca di andare su un traliccio, che ci riesce, poi prende anche la scossa e cade, e si fa una tragedia di questo, mentre una persona comunissima, tra virgolette, come George Clooney, viene tranquillamente arrestata e nessuno ha avuto niente. Anche questo, alla fine, scusami Roberto, è una questione un po' diversa, diciamo, adesso diventa lungo discutere, però anche questi sono due casi diversi. Ti ringrazio Roberto, mentre Giorgio Moulet, in questi due minuti e poco meno che ci rimane, Giorgio, ti chiedo, prima di farti la domanda finale, se hai una cosa che ti è rimasta lì di questa settimana, proprio da esprimere in un minuto. Di una notizia della settimana? Sì. Ma guarda, mi è molto divertito questo discorso delle foto su Twitter, devo dire. Per cui vedere Casini, Alfano, che si fanno fare la foto con Monti. Qualcosa, perché stamattina su Twitter mi sono divertito perché Bersani ha postato immediatamente alle 8 una sua foto nella metropolitana di Parigi, in cui dice vado da Hollande, che è il candidato della sinistra francese alle presidenziali, con la metro e non con l'auto blu. Quindi non solo i ragazzini adesso con Twitter, Facebook, loro di più. Ma è partito un delirio su Twitter, allora di corsa che Casini stamattina ha detto no, io sono invece la Confindustria a Milano. Manca di sapere dove è Alfano, ecco, perché oramai chi se ne importa, potremmo... scusa Giorgio, tu dove sei di solito la mattina alle 8:38 precise? In ufficio, guarda, è un orario perché sono al riparo da quegli beoti che attraversano la strada con l'iPod. Bravo, e vedi che uomo intuitivo, perché in Gran Bretagna è stato fatto uno studio scientifico secondo il quale le 8:38 di mattina sono l'ora più pericolosa in assoluto per andare per strada, perché sono soprattutto i pedoni, colpa dei pedoni, che causano incidenti con le macchine e tutto il resto per la loro distrazione, perché vanno in giro con i telefonini e telefonano e fanno gli sms eccetera eccetera, non vedono dove vanno e causano incidenti. Bravo tu che sei in ufficio, hai capito ufficio. Tutto Giorgio Mulè, esatto. Lo faceva un uomo intelligente, grazie Giorgio Mulè. Allora grazie a voi, grazie infinite. Grazie Giorgio, potete riascoltare la trasmissione sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook della trasmissione. Da Roberta Giordano, Serenio Orizzonti a tutti.